la lotta contro il fascismo e contro il nazismo, in Italia, in Jugoslavia, in Francia, dove è sempre una lotta comune. Quindi se io combatto con gli italiani, combatto anche per la mia gente. E gli dissi così, dico, io rimango qui perché penso che combattere con voi, combatto anche per la mia gente. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclama l'insurrezione generale, mettendo così fine all'occupazione nazista e al regime fascista. Cosa rimane oggi di questo evento e come si è costruita la memoria pubblica della Resistenza? Lo raccontiamo nello speciale Tra Utopia e Lotta, 80 anni di Resistenza in tre puntate dedicate alla lotta di liberazione. Impararono a percorrere chilometri e chilometri in bicicletta, portando armi, stampa, materiali pericolosi nelle sporte da massaia o nelle borsette da passeggio, per tutte le strade sotto le mitraglie e i bombardamenti, con continuo pericolo di essere prese dai nazifascisti, di cadere in una retata o di incappare in una rappresaglia. Prendiamo in prestito le parole del capo del Comando Unico dell'Emilia-Romagna, Ilio Barontini, che racconta le vicende delle staffette, in gergo militare ufficiali di collegamento, e i rischi che ogni giorno affrontavano. Le staffette, per lo più donne, sono partigiani a tutti gli effetti, e nei 20 mesi della lotta resistenziale capita spesso che proprio le donne abbiano una o più mansioni. Staffette, abbiamo detto, ma anche infermiere, partigiane in armi, cuoche. La guerra di liberazione muta di mese in mese e loro mutano con essa. Sfruttare gli stereotipi femminili come la bellezza, la timidezza, la civetteria o la mancanza di coraggio per la lotta partigiana può voler dire un lasciapassare, che per molte situazioni significa la libertà. E tante sono le partigiane che raccontano come passano i posti di blocco o convincono le guardie a lasciarle andare. Un esempio fra tutti è la partigiana bolognese Ena Frazzoni, che racconta la necessità di cambiare spesso pettinatura e colore di capelli, di avere sempre un libro di latino in borsa per non destare sospetti, o di sfoggiare tutta la timidezza possibile per sembrare solo una docile studentessa. In questo secondo speciale di Vallun, dedicato agli 80 anni della Resistenza, torniamo a parlare di partigiane, di scelte e di speranza, raccontando con un documentario e un albo illustrato la storia di Flora Monti, una delle ultime partigiane ancora in vita e la più giovane staffetta della Resistenza. Siamo vecchi lupi di montagna. Flora fa parte della 66esima Brigata Jacchia, che opera dalle parti di Monterenzio, dove Flora nasce nel 1931. A 13 anni, nel luglio del 1944, decide di fare la staffetta con il beneplacito della famiglia, attraversando le montagne che lei conosce benissimo per portare messaggi da una brigata all'altra. La partecipazione alla Resistenza dura meno di un anno. In seguito, con la famiglia, è costretta a lasciare la provincia di Bologna e approda a Cinecittà, fiore all'occhiello del cinema fascista, trasformato durante la guerra in un campo profughi alleato. Flora passerà mesi e mesi da sfollata proprio in questo luogo. Nel dopoguerra, Flora Monti torna a Bologna e continua ad occuparsi di politica, con le manifestazioni per il voto alle donne, con gli scioperi contadini ed operai degli anni 50 e nella stagione dei movimenti e al fianco degli studenti nel 68 e poi in difesa delle leggi sul divorzio e sull'aborto. In questi 2 anni la storia di Flora Monti è arrivata al grande pubblico, grazie al film documentario Flora, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, e abbiamo chiesto alla regista Martina De Polo di parlarne. Salve a tutti e a tutte, mi chiamo Martina De Polo, sono la regista di Flora. È un documentario Flora sulla storia di Flora Monti, che è una signora di 93 anni che ora vive a San Lazzaro di Savena ed è una delle più giovani staffette partigiane della Resistenza italiana. Lei a 12 anni decide di unirsi alle brigate di montagna per diventare ufficiale di collegamento, portare appunto armi e messaggi. Quando Alex Scorza, che è mio coautore, mi ha chiesto di realizzare un documentario sulla storia di Flora, ho subito pensato che fosse una storia veramente interessante. Punto primo perché è una storia di resistenza e penso che sia importantissimo nel periodo storico che stiamo vivendo ricordarcelo, ricordare le storie che parlano di resistenza, ma poi perché è la storia di una donna e spesso non viene raccontato quanto le donne siano state veramente fondamentali per la resistenza in Italia. E poi è la storia di una bimba, quindi insomma mi permetteva di dare uno sguardo storiografico diverso rispetto a quelli narrati di solito, che sono gesta eroiche, plateali, grandi combattimenti, ma invece questa storia mi permetteva di raccontare come una moltitudine di figure, spesso non celebrate dalla storiografia classica, hanno contribuito alla storia con la S maiuscola. L'idea di fare questo documentario ci è venuta principalmente perché volevamo raccontare alle generazioni che non avranno la possibilità di sentirlo in prima persona queste storie di resistenza, e quindi per farlo abbiamo deciso di utilizzare un linguaggio che fosse un po' diverso, un po' sperimentale. Abbiamo cercato di creare qualcosa di diverso che si scostasse dal documentario storiografico classico. E quindi abbiamo realizzato una serie di lavori cercando di amalgamare linguaggi, stili diversi. Abbiamo usato tanto teatro, infatti ogni attore ha la maschera della commedia dell'arte, questo grazie alla collaborazione che abbiamo creato con la compagnia Fraternal Compagnia di Bologna, che inscenano appunto la commedia dell'arte, opere della commedia dell'arte. E in più abbiamo realizzato della videoarte, per cui si vedranno delle proiezioni sui corpi degli attori che vogliono simboleggiare poi i sentimenti più intimi e personali delle vicende narrate, dei personaggi. E poi ci sono anche delle immagini dell'attualità che sono compositate sugli edifici della storia attraversata da Flora, perché la storia di Flora non racconta solamente una storia di resistenza, ma racconta anche una storia di un gruppo di sfollati che insieme a degli alleati percorrono mezza Italia, passando per Firenze per approdare poi al campo sfollati di Cinecittà. Pochi sanno che Cinecittà era diventato uno dei più grandi campi sfollati d'Italia, accoglieva migliaia e migliaia di persone da oltre 40 nazionalità, e abbiamo pensato fosse interessantissimo parlare anche di questo ambito storico. Quando sono andata poi a conoscerla a casa per scoprire insomma se c'era un personaggio, perché effettivamente nei documentari la cosa più importante è la testimonianza diretta, quindi è sempre importante capire se le persone che vengono messe davanti alla telecamera per raccontare la propria esperienza personale, come dire, sono comunicative, sono empatiche. Chiaramente è stato così, Flora ci ha accolto con grande calore, grande emozione, e poi ci ha raccontato appunto tutta questa storia del suo viaggio che l'ha condotta a Firenze e poi a Cinecittà. Abbiamo subito pensato che potesse essere un documentario da realizzare. Abbiamo utilizzato delle immagini anche della contemporaneità, immagini non storiche, ma appunto dell'attualità, che ci sono state fornite da UNICEF, che abbiamo compositato. Abbiamo creato una finta videomapping su questi edifici, come vi dicevo prima, e questo era proprio per cercare di mandare un messaggio. Il messaggio era: c'è ancora da resistere, c'è ancora motivi per cui lottare, e sono principalmente situazioni in cui i diritti, principalmente dei minori, vengono meno. Quindi ci saranno delle immagini di Aleppo distrutta, ci sono delle immagini dei campi profughi interni africani, ci sono delle immagini dei campi profughi delle isole greche e degli sfollati ucraini. Speriamo che questo documentario piaccia, siamo contenti di come sta andando e come è andato. C'è stata una grossa risposta di pubblico, ora lo stiamo portando nelle scuole perché crediamo sia importantissimo parlare ai ragazzi della nostra storia e soprattutto della storia che riguarda la Resistenza. Un saluto a tutti e a tutte e grazie mille dell'invito. Un abbraccio. In questo 80° della Resistenza, per raccontare la storia di Flora Monti ai bambini e alle bambine, è uscito per Lapis Edizioni un bell'albo scritto da Fulvia dell'Innocenti e illustrato da Sara Cimarosti. Abbiamo contattato Sara e le abbiamo fatto qualche domanda. Buongiorno Van Loon e grazie per l'ospitalità e buongiorno a tutte e tutti. Prima dell'inizio della lavorazione alle tavole c'è stata sicuramente una lunga ricerca iconografica e storica, specialmente per quanto riguarda la costruzione dei personaggi e delle ambientazioni. Devo dire che ho avuto la fortuna che la storia fosse avvenuta sull'Appennino tosco-emiliano, che è anche la zona attorno a Bologna, che è la città dove vivo. Quindi un po' conoscevo già l'Appennino, i suoi colori e la sua flora, questa volta nel senso arboreo del termine, e quindi con appunto i suoi faggeti, i castagneti, gli abeti. E una delle ricerche è stata proprio quella cromatica, per trovare una palette che volevo fosse in qualche modo autunnale. Nonostante Flora entri nella Brigata Garibaldi in luglio del 44, i colori dell'autunno, delle foglie in autunno, mi permettevano di dare un effetto più caldo e avvolgente alle scene. La ricerca si è concentrata sicuramente sulle divise dei soldati tedeschi e italiani e sul territorio geografico, quindi per quanto riguarda i punti di vista e le valli, i fiumi. Di Flora Monti c'era pochissimo materiale dell'epoca fotografico, e però comunque avevo materiale video per quanto riguarda i racconti che lei stessa fa tuttora come attivista per portare avanti i valori della Resistenza, nonostante i suoi 94 anni. Ho avuto la possibilità di conoscere Flora Monti in persona il 2 aprile alla Fiera del Libro di Bologna ed è stato molto emozionante sentire i racconti direttamente da lei. Molto materiale su cui ho ricercato è stato messo a disposizione dall'AMPI. Sono soprattutto foto delle varie brigate a seconda della località geografica e informazioni sulla linea gotica. Oltre alle letture e alla ricerca iconografica, devo dire che la fonte di ispirazione maggiore forse viene dai ricordi dei racconti della mia ex suocera Franca, che allora, all'epoca dei fatti, era una bambina, abitava appunto sulla linea gotica a Grezzana Morandi, quindi non lontano dalla Monterenzio di Flora. Era cresciuta in una casa di campagna con il nonno contadino e era stata sfollata, quindi ho richiamato alla memoria spesso i suoi racconti. Raccontare la Resistenza oggi ai bambini, secondo me, non solo è possibile, ma è anche un grande regalo che si fa a loro. E basta usare le parole giuste. E io sono un'illustratrice, quindi racconto per immagini, però è la stessa cosa. E, nel senso che io credo che ai bambini non interessa particolarmente ascoltare la storia raccontata in modo frontale, lineare, fatta di date, di avvenimenti, eccetera, eccetera, ma vadano un po', abbiano bisogno un po' di essere incuriositi, quindi di dettagli che catturino la loro attenzione. E, ad esempio, secondo me, in una foto di famiglia con cane, il bambino nota il cane subito, un po' perché è un personaggio a cui andare subito a presentarsi per giocare magari. e poi perché è più buffo, è meno legato al mondo degli adulti. Quindi, oltre sicuramente ad esserci il cane presente nelle tavole, ho cercato degli elementi che catturassero l'attenzione e che dessero la possibilità di recuperare poi degli argomenti legati alla resistenza. Ad esempio, la gonna rossa del personaggio Flora. Sicuramente c'è stato un grande lavoro dietro, di studio, insomma, legato all'abbigliamento di Flora, e anche perché avevo a che fare poi con una bambina che era a cavallo tra l'infanzia e la preadolescenza, per cui in alcune tavole sembra più bambina, in altre tavole sembra più adulta. Indossa questa gonna rossa, che è un bollo che si vede in tutte le tavole, anche quando il personaggio cammina in mezzo ai colori del bosco, e mi dà la possibilità di introdurre il tema della resistenza collegata al colore rosso e al coraggio, quindi. E diciamo che si può lavorare per analogie, per simboli con i bambini, anche molto semplici, come ad esempio il leone è il simbolo del coraggio, la gonna rossa è il simbolo della resistenza e del coraggio, e anche di molte altre cose, però si può anche rimanere sul semplice, invitare anche i bambini a dire la loro, a scoprire appunto il loro punto di vista, ed è quello che farò quando avrò occasione di fare dei laboratori su questo albo, e mi piacerebbe far ricordare loro episodi in cui è stato necessario essere coraggiosi, fare qualcosa che faceva paura, che richiedeva coraggio e che però avrebbe aiutato qualcun altro. Ci sono molti esempi che mi vengono in mente anche personalmente di quando ero bambina, legati a questa tipologia di paura misto a coraggio che però aiuta qualcuno. Ecco, questo può essere secondo me un modo semplice e diretto di parlare di resistenza. Quando si tratta di scattare, noi partigiani siamo i primi, tutti si affacciano a guardare, tutti si affacciano al balcone se qualcuno dichiara guerra e se minaccia la nostra. Tra utopia e lotta, 80 anni di resistenza, è lo speciale della redazione di Vallun dedicato alla lotta di liberazione. Potete riascoltare tutte le puntate in podcast su www.radiovallun.info e sulle principali piattaforme audio. La voce che avete ascoltato all'inizio della puntata è della partigiana Vinka Kitarović.